The topic of our discourse this evening is the acquisition of wisdom. L'argomento di questa sera è l'acquisizione della saggezza. During the preceding discourse last night, we ended with a passage from the Samyutta Nikaya and a discourse entitled The Inferior Person. La scorsa notte abbiamo finito con un passaggio del Samyutta Nikaya sulla persona inferiore. And so an inferior person is a person who is of wrong view, wrong intention, wrong speech, wrong action, livelihood, and so on. E una persona inferiore è una persona che ha queste errati, la visione errata, l'intenzione errata, la parola errata e così via. Whereas a person, a superior person, is certainly a person of right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration. Mentre una persona superiore è una persona che ha la visione retta, ha l'intenzione retta, la parola retta, l'azione retta, i retti mezzi di sussistenza, il retto sforzo, la retta consapevolezza e la retta concentrazione. Now, the same Samyutta Nikaya contains a second discourse under the same title, namely The Inferior Person, and certainly here the Buddha says, I will teach you the inferior person and the one who is worse than the inferior person. Nel Samyutta Nikaya c'è un altro breve discorso con lo stesso titolo, cioè la persona inferiore, e inizia così, il Buddha dice, vi insegnerò riguardo della persona inferiore e anche alla persona peggiore di quella inferiore. Yes, and such a person, worse than an inferior person, is someone of wrong view, wrong intention, wrong speech and so on. E quindi questa persona che è peggio della persona inferiore è una persona che ha comunque l'errata visione, l'errato pensiero, l'errata parola, eccetera. Mm-hmm. All the way to wrong concentration. Che continua questa lista fino all'errata concentrazione. And adding two factors, namely wrong knowledge and wrong liberation. Però in più ha l'errata conoscenza e l'errata liberazione. And the Pali term for the wrong knowledge is certainly given here as micchagnani. Micchagnani è la parola in Pali per questa conoscenza errata. And wrong liberation is miccha vimutti. Mentre la liberazione errata è miccha vimutti. Uh-huh. And as for the first one, wrong knowledge, the commentary explains this as wrong reviewing. Allora, i commentari spiegano questa conoscenza errata come un tipo di revisione errata. And the sub-commentary explains this further by saying when one has done something wrong, one reviews it with the idea that it is good or was good. E viene spiegato ulteriormente così, cioè che quando si fa qualche cosa di sbagliato, una persona poi quando revisiona questa azione lo fa con l'idea di aver fatto qualcosa di buono e di giusto. And miccha vimutti, wrong liberation, is explained as false liberation and non-emancipating liberation. Mentre Miccia Vimutti questa liberazione errata viene spiegata come una liberazione che è falsa, quindi non è liberante. And certainly so, if someone goes around spreading wrong teachings that in the end do not lead to liberation, then this would be such a case. E questo è il caso di persone che possono andare in giro, per esempio, a insegnare degli insegnamenti che sono sbagliati, che non conducono alla vera liberazione. And just like there is a superior person, the Buddha also in this context speaks of a person who is better than a superior person. In questo contesto il Buddha, così come c'è una persona superiore, parla anche di una persona che è addirittura meglio della persona superiore. And such a one is certain a person of right, certain view, right intention, right speech and so on. E una persona del genere ha anch'essa la retta visione, la retta intenzione, la retta parola, così via. All the way to right concentration and adding right knowledge and certain liberation. Così via fino alla retta concentrazione, in più a questi due altri fattori della retta conoscenza e della retta liberazione. And such a person is known as one who is better than a superior person. Quindi questa persona è detta una persona migliore della persona superiore. Now, the Anguttara Nikaya contains a couple of statements that highlight the importance of wisdom in relation to worldly things. Namely, yes. L'Anguttara Nikaya contiene un paio di affermazioni che riguardano l'importanza della saggezza rispetto alle faccende mondane. And so it states, insignificant, O retreatants, is the loss of relatives. The worst thing to lose is what? Wisdom. There you go. Dice, meditanti, la perdita dei parenti è insignificante. La cosa peggiore da perdere è la saggezza. Yes. And then, insignificant is the increase in relatives. The best thing to increase is, of course, wisdom. È insignificante l'aumentare il numero dei parenti, e quello che è significante è riuscire a aumentare la saggezza. Therefore, O retreatants, you should train yourselves, thus we will increase in wisdom. It is in such a way that you should train yourselves. Dunque, meditanti, voi dovrete addestrarvi così, io farò aumentare la saggezza, in questo modo dovrete addestrarvi. Now, still some more. Insignificant, O retreatants, is the loss of wealth. The worst thing to lose is wisdom. E poi ancora dice, è insignificante, meditanti, la perdita della ricchezza, la cosa significante è perdere la saggezza. Insignificant is the increase of wealth. The best thing in which to increase is wisdom. Nello stesso modo è insignificante cercare di aumentare la ricchezza, la cosa migliore è cercare di aumentare la saggezza. Therefore you should train yourselves, thus we will increase in wisdom. Dunque dovrete addestrarvi così, noi ci addestreremo per aumentare la saggezza. It is in such a way that you should train yourselves. È in questo modo che dovrete addestrarvi. Now, insignificant is the loss of fame. The worst thing to lose is wisdom. Insignificante è la perdita della fama, la cosa peggiore da perdere è la saggezza. Insignificant is the increase in fame, the best thing in which to increase is wisdom. È insignificante l'aumentare della nostra fama, mentre è buono aumentare la saggezza. Therefore, O retreatants, you should train yourselves, thus we will increase in wisdom. Dunque, meditanti, dovrete addestrarvi così, noi aumenteremo la saggezza. It is in such a way that you should train yourselves. In questo modo dovrete addestrare voi stessi. Now, there is a certain correlation or link between wisdom, panya, and ethical conduct, sila, as well as a correlation or a link between wisdom and concentration. Allora, c'è una certa correlazione, un certo collegamento tra panya, la saggezza, e sila, la virtù. E allo stesso modo c'è anche un collegamento tra la saggezza e la concentrazione. And also a link between wisdom and meditation practice. E anche una connessione tra la saggezza e la pratica di meditazione. Now, in terms of this link between intuitive wisdom and ethical conduct, the text contains a nice image, namely, it is the two are like when one has worked, let's say, in the garden, in the fields, and ends up with dirty feet. One then goes to a hand pump and then cleans the feet. And it is with one foot that one cleans the other foot, with that other foot that one cleans the first foot, or with one hand one washes the other hand, and vice versa. Allora, c'è una similitudine carina rispetto a questa connessione tra la saggezza intuitiva e la condotta morale, che è per esempio una persona che va in un campo dove c'è della terra e si sporca i piedi o le mani, e poi quando va a lavarli sotto la pompa dell'acqua con un piede lava l'altro piede, o con le mani lava l'altra mano. The Dīgha Nikāya, the long discourses of the Buddha, contain a nice satna passage in this satna regard. It states, wisdom is purified by morality, and morality is purified by wisdom. Il Dīgha Nikāya contiene un passaggio in cui viene detto la saggezza è purificata dalla condotta morale, dalla moralità, e la moralità viene purificata dalla saggezza. Where one is, the other is. Quando c'è una, c'è l'altra. The moral person has wisdom, and a wise person has morality. Una persona morale ha saggezza e una persona saggia ha moralità. And the combination of morality and wisdom is called the highest thing in the world. E la combinazione tra la moralità e la saggezza viene definita la cosa più elevata del mondo. And just as one hand washes the other, or one foot near the other, so wisdom is purified by morality, and this combination is called the highest thing in the world. E così come un piede lava l'altro piede, una mano lava l'altra mano, così la saggezza è purificata dalla moralità, e questa è la cosa più elevata del mondo. And the more we practice, the more intuitive wisdom will arise, and with that there will be more understanding, of new things, and as a result, we will pay even closer attention to our ethical conduct. Più noi pratichiamo, più sorgerà la saggezza intuitiva, e più questa sorgerà, più noi riusciremo a capire veramente, la nostra comprensione aumenterà, e questo qua ci condurrà anche a aumentare la nostra condotta morale, a perfezionarla. The Venerable Mahasi Sayadaw of Phutna Burma has explained an additional or a point that is linked to this particular topic. Il venerale Mahasi Sayadaw della Birmania ha spiegato ulteriormente alcuni dettagli su queste connessioni. And so he states, as is given in the manual of Phutna Insight, all meditators should develop concentration and insight knowledge based on two kinds of morality. E nel suo manuale dell'intuizione profonda, manuale dell'insight, lui dice i meditanti dovrebbero sviluppare la cosa? Concentration and insight. La concentrazione e l'insight sulla base di due tipi di moralità. And those two types of morality are morality that has been purified before meditation, in Pali known as Pubbabhaga Sila. And the second one is morality that is purified during meditation, so as we are undertaking meditation, and this in Pali is known as Sahajata Sila. Quindi c'è una moralità che deve essere purificata prima di iniziare la pratica di meditazione e una moralità che invece viene purificata, come stiamo facendo noi adesso, anche durante la pratica. And there are cases of Phutna retreatants to whom ethical conduct is important, and they make it a point to observe Phutna, at least the five precepts, during their life Phutna prior to an intensive retreat. Ci sono alcuni meditanti per cui la condotta morale è importante, quindi cercano di mantenere almeno i cinque precetti nel periodo precedente a un ritiro intensivo o anche sempre. And if, for instance, as a child and a youngster, adolescent, one pays much attention to observing an ethical conduct, then when such a person sooner or later does an intensive retreat, it really supports the practice, it really supports the unfolding of intuitive wisdom. From when one is a child? Yeah. Ah, ok. Quindi, from an early age onwards. Okay. Quindi se una persona quando è già un ragazzino oppure molto molto giovane inizia già a rispettare una certa condotta etica o morale, poi a un certo punto vuole dedicarsi alla pratica della saggezza intuitiva, per lui sarà molto facile svilupparla. Now, not everyone is doing this. And that yet, through the meditation practice itself, so while undertaking the mindfulness meditation, we are purifying our conduct. E non tutti fanno questo, naturalmente, però anche praticando, proprio facendo questa meditazione di insight, di consapevolezza, la condotta etica viene purificata. And so even if one has performed unwholesome deeds in the past, then and they have left a mark on the mind, yet during intensive practice, if one keeps certain of the precepts, this certain will gradually, the practice will gradually contribute certain to more and more morality. Quindi anche se in passato sono state compiute delle cose immorali, comunque poi tramite la pratica e tramite il mantenere i precetti durante la pratica viene costruita, viene rafforzata e sviluppata la moralità. And such a person is or has that, the potential to realize the Dhamma. E quindi in questa persona c'è il potenziale di realizzare il Dhamma. Now, the Venerable Asi Saradhatna goes on to say that morality that has already been observed for some time before taking up a meditation practice serves as a remote condition or prior condition for the arising of insight concentration and insight wisdom. E Mahasi Sayadaw continua e dice che la moralità che viene rispettata precedentemente all'avere poi intrapreso la meditazione serve come fondamento, come base per poi lo sviluppo della concentrazione e della saggezza dell'insight. And not only that, but it will also contribute to the realization of path concentration and path knowledge or wisdom. E contribuisce anche poi al sorgere della concentrazione del sentiero e della conoscenza del sentiero. And as we go along, as we practice, our virtuous conduct will improve more and more, and that then will contribute to later attainments. E poi più e più pratichiamo, la nostra condotta, la nostra virtù miglioreranno e questo contribuirà sempre più a degli ottenimenti futuri. Now, Dhammapada verse number 372 states there can be no concentration in one who lacks wisdom. E nel Dhammapada il verso 372 dice che there can be no concentration in one who lacks wisdom. Non può esserci concentrazione in chi manca di saggezza. And there can be no wisdom in one who lacks concentration. E non può esserci saggezza in chi manca di concentrazione. He or she who has concentration as well as wisdom is indeed close to Nibbana. E la persona che ha sia la concentrazione che la saggezza è sicuramente vicina al Nibbana. And so with this sadhana you can see this close link between concentration and sadhana intuitive wisdom. Da questo potete vedere questo collegamento molto vicino che c'è tra la concentrazione e la saggezza intuitiva. Now, for intuitive wisdom to arise out of logical thinking or out of imaginations or reading books or listening to talks, etc., this is impossible. Allora, è impossibile che la saggezza intuitiva sorga tramite il ragionamento logico, l'ascoltare dei discorsi, leggere i libri oppure attraverso l'immaginazione. But instead, as the Dhammapada verse 282 is stating, indeed wisdom is born of meditation. Without meditation, wisdom is lost. Nel Dhammapada viene detto la saggezza nasce dalla meditazione, senza la meditazione la saggezza è perduta. Yes. And knowing this twofold path of gain and loss of wisdom, one should conduct oneself so that wisdom may increase. E quindi conoscendo, rendendosi conto di questi due sentieri, uno che conduce verso il guadagno, l'acquisizione della saggezza, e uno verso la perdita della saggezza, noi possiamo sapere come fare. No. On occasion they are, yogis who do an intensive retreat, they get up to a certain point, and then basically they give up on the practice. They just don't do daily practice anymore. Succede che i meditanti fanno un ritiro intensivo, poi dopo però a un certo punto abbandonano la pratica, nel senso non hanno più una pratica quotidiana. And with that, it's not surprising that certainly their intuitive wisdom will gradually subside. E quindi non bisogna sorprendersi in questo caso se la loro conoscenza intuitiva gradualmente inizia a indebolirsi, a svanire. A seed of wisdom would be there, but that unfolds only through practice. O magari diciamo che un seme di saggezza può essere presente, però può svilupparsi solo grazie alla pratica. Now, what we shall look at is what in English is known as the acquisition of Fertner wisdom. In Pali it's given as Panya Patilabha Karana. Karana means to do. And Fertner's are the things that need to be done for wisdom to arise. Quindi l'acquisizione della saggezza, cioè quello che va fatto per fare sorgere la saggezza, è descritto da questo termine in Pali. And there are actually quite a number of Fertner factors that contribute to the arising of Fertner wisdom. And knowing those factors will help a meditator support the arising of wisdom. Allora, ci sono molti fattori che contribuiscono al sorgere della saggezza. Se un meditante conosce questi fattori, questo può essere molto d'aiuto. Now, the Samyutta Nikaya contains a very short Satna discourse that states these four things, when developed and cultivated, lead to the realization of the fruit of stream entry. What for? Allora, Samyutta Nikaya contiene un breve discorso che dice queste quattro cose, quando vengono sviluppate, conducono al frutto dell'entrata delle corrente. Quali sono queste quattro? And the first factor is association with supreme persons, or superior persons, not supreme. Il primo fattore è l'associarsi a una persona che è superiore. The second one is hearing the true Dhamma. La seconda è l'udire il vero Dhamma. And the third one is careful attention. Il terzo è un'attenzione attenta. And the fourth factor is practice in accordance with the Dhamma. E il quarto è praticare in accordo con il Dhamma. Now, hearing the true Dhamma will take place only if there's a person who has realized that the Dhamma and is in a position to share the Dhamma. Allora, l'ascolto del vero Dhamma può avvenire soltanto se è presente una persona che ha realizzato il vero Dhamma e che è nelle condizioni di poterlo condividere. And so hence, association with such a superior person is necessary. E dunque è necessario associarsi con una persona superiore di tal fatta. When one associates with such a person, one is bound to get to hear the true Dhamma. Perché associandosi a una persona del genere si verrà sicuramente, cioè sarà sicuramente possibile ascoltare il vero Dhamma. Now, hearing the true Dhamma is one thing, but it could well be that one is not really paying close attention, and then it's just hearing and not really grasping what is being said. E quindi ascoltare il vero Dhamma è una cosa, però se non prestiamo veramente attenzione a quello che viene detto, rimane soltanto un mero udire e non vengono afferrate le cose che vengono dette, non vengono comprese. Now, the Dhamma is profound in nature, And so there are some great subtleties there. Now, if we don't pay close attention, then we will miss those subtleties. Allora, la natura del Dhamma è molto profonda e contiene tante cose che sono molto sottili da afferrare, quindi se noi non prestiamo un'attenzione accurata ci perderemo sicuramente queste sottigliezze. Now, if no one is fulfilled with the first three factors, namely association with a superior person, hearing the true Dhamma, and paying careful attention, this is good, but not good enough. Se ci sono i primi tre fattori, cioè possiamo associarci a una persona superiore, possiamo ascoltare il vero Dhamma e possiamo farlo prestandogli la corretta attenzione, questo è una cosa molto buona, ma non è abbastanza. Uh-huh. And so, if one just leaves it at hearing the Dhamma and paying careful attention, then there is no making use of the Dhamma. So what is required is practice in accordance with the Dhamma. Perché in questo caso, anche se gli prestiamo attenzione, non stiamo veramente facendo uso di questo buon Dhamma. Quella cosa che invece è necessaria è la pratica del vero Dhamma. And there are plenty of people who follow the Buddha's teachings, who are happy to practice generosity, who are happy to observe Fatna precepts, sila, and they leave it at that. And they don't take the most important step of bhavana, of development of the mind. Ci sono moltissime persone che si accontentano di seguire gli insegnamenti del Buddha e di praticare la generosità oppure di rispettare i precetti, però poi non riescono a capire che la cosa più importante da fare è lo sviluppo di bhavana, della coltivazione della mente. So the Buddha's Dhamma is to be understood through practice, so through one's own experience. Mentre il Dhamma del Buddha deve essere compreso attraverso la pratica, attraverso la nostra propria esperienza. Now, when it comes to the acquisition of wisdom, we can also turn to the so-called Alawaka Sutta of the Samyutta Nikaya. Quando si parla dell'acquisizione della saggezza, possiamo anche guardare all'Alawaka Sutta del Samyutta Nikaya. And Alawaka, a rather unfriendly being, encountered the Buddha at one point and tried to challenge the Buddha. Allora, c'è un essere che non è molto amichevole, che incontra il Buddha e lo cerca di sfidarlo. And so the first question that Alawaka posed was, how does one gain wisdom? E la prima domanda che Alawaka fa al Buddha è, come si ottiene la saggezza? And to this, the Buddha replied, placing faith in the Dhamma of the Arahants. Il Buddha gli dice, ponendo la nostra fiducia nel Dhamma degli Arahant. For the attainment of Nibbana. Per l'ottenimento del Nibbana. From desire to learn. Dal desiderio di imparare. One gains wisdom. Con queste cose si ottiene la saggezza. If one is diligent and astute. Se una persona è diligente e astuta. Yes. I don't like too much. In Italian, it seems like a fox. Saggia, è saggia. Now, the commentary explains that several aspects are involved here in gaining wisdom. Il commentario spiega che ci sono molti aspetti qui coinvolti nell'acquisizione della saggezza. And the first one, it comes in the form of faith in the Dhamma by which the Arahants attain Nibbana. Il primo è questa fede nel Dhamma attraverso cui gli Arahant ottengono il Nibbana. So by placing faith in the Dhamma, one gains mundane and supramundane wisdom for the attainment of Nibbana. Quindi, grazie alla fede nel Dhamma, si può ottenere la saggezza sia terrena, mondana, che quella supramondana e ottenere il Nibbana. Now, however, alone, with faith alone, it cannot be realized. Però bisogna dire che con la fede da sola questo non può essere realizzato. And so out of certain faith, some initial faith, one will approach a teacher. Quindi con una fede iniziale una persona si avvicina a un insegnante. And so approaching a teacher then automatically implies that, or hopefully implies that one will lend an ear to what is being said and that no one hears the Dhamma. E avvicinandosi a un insegnante si spera almeno che poi una persona ascolti e impari quello che viene detto e quindi impari il Dhamma. And having heard a little bit of Dhamma, desire to learn more will likely arise. E avendo udito un po' di Dhamma, poi può sorgere il desiderio di imparare ancora di più, di comprendere ancora di più il Dhamma. And so with this sadhana then, out of this desire to learn, one gains sadhana wisdom. E quindi attraverso questo desiderio di imparare che si riesce a ottenere la saggezza. But that sadhana desire to learn and gaining wisdom, of course, is based on the initial faith and lending an ear, etc. Ma questo desiderio di imparare e questo ascoltare il Dhamma, avvicinarsi a un insegnante, è tutto basato su una fede iniziale. Now, on top of that, as certainly the Buddha explained, one needs to be diligent, in Pali given as appamatto, and astute, vicikana in Pali, and astute here meaning being able to distinguish what is well spoken and what is not. Allora, in cima a tutto questo è necessario essere diligenti, che in Pali è appamatto. E poi questo essere astuti, che il significato di questo vuol dire riuscire a comprendere se una cosa viene ben detta, un insegnamento ben detto oppure no, se è corretto oppure no. No. A short verse from the Samyutta Nikaya that has been mentioned already highlights that one needs to be perfect in virtue or else well established in virtue. This will contribute, as we have seen, to the arising of concentration. And this, in turn, then will lead to the arising of intuitive wisdom. Un passaggio che abbiamo già visto dice che grazie all'essere stabiliti nella virtù si può poi sviluppare la concentrazione e grazie a questa concentrazione si può poi sviluppare la saggezza. So in Pali those certain three aspects are given as Sila, Samadhi and Panya. Sila, Samadhi e Panya sono i nomi in Pali di questi tre aspetti. Now, we find certain advice on acquiring wisdom in a passage that occurs in various places in the text, and certainly that has been referred to as the gradual path of training. E questa acquisizione della saggezza con dei consigli per l'acquisizione della saggezza vengono contenuti in vari passaggi che si trovano nei testi, che sotto il nome di sviluppo graduale della gradual training, addestramento graduale. Yes. And so the very first step that is that the Buddha speaks of is that of faith. Some initial faith in the Buddha. Quindi il primo aspetto è questa fede iniziale, quindi un po' di fede iniziale nel Buddha. And that initial faith may arise by reading some Dhamma book, or it might arise by hearing the experience of a meditator, or by seeing, let's say, some beautifully carved Buddha statue, or a beautiful stupa, etc., or coming across an inspiring teacher, etc. Questa fede iniziale può arrivare leggendo qualche libro sul Dhamma, oppure sentendo delle esperienze di un altro meditante, o magari vedendo anche una bella statua del Buddha, una pagoda, oppure incontrando un insegnante che ci ispira molto. And so this initial faith, which is still rather weak in nature, will lead to the arising of right thought. And right thought here is thought of renunciation. E questa fede, che ha ancora una natura molto debole, però farà sorgere un tipo di pensiero retto. Of renunciation. Che è un pensiero di rinuncia. And one realizes that within one's ordinary context, certain family, home, and so on, it's difficult to practice, and then the thought of temporarily renouncing all of that and going on a retreat. Nel senso che ci si rende conto che nel nostro contesto di vita ordinaria, la vita che abbiamo a casa o in famiglia, non è un contesto adatto alla pratica, allora decidiamo per un periodo di tempo limitato di rinunciare a tutto questo e andare a praticare in ritiro. And so based on this initial faith, based on right certain renunciation, such a person, such a disciple, is certainly then also ready to take upon oneself the precepts. E quindi sulla base di questa fede, di questa rinuncia, questo meditante, questo discepolo, poi è pronto anche a iniziare a rispettare i precetti. Now, as the next step, the Buddha describes the willingness to restrain one's senses. In the Pali scripture language, given as Indriya Samvara Sila. So rather than letting the eyes roam around and paying attention to every sound that comes along, we try to restrain the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body and the mind. E poi quindi può anche sorgere la volontà di contenere i nostri sensi, che in Pali è Indriya Samvara Sila, e quindi quello che vogliamo fare è cercare di non lasciare che gli occhi, l'udito e tutti gli altri sensi inizino a divagare all'esterno, e cerchiamo di mantenerli contenuti. And then, hearing the instructions, we then start applying mindfulness and certain clear comprehension. Poi, dopo aver udito le istruzioni, iniziamo ad applicare la consapevolezza e la retta comprensione, la chiara comprensione. Yes. And in so practicing, sooner or later, as most of you will have experienced by now, the hindrances will arise. and the hindrances consisting of the hindrance of the sense desire, of ill will, of sloth and torpor, of restlessness and remorse and skeptical doubt, and those will be overcome temporarily. E poi, come quando iniziamo a praticare, come molti di voi hanno già sperimentato, iniziano a sorgere gli ostacoli che sono il desiderio sensoriale, la malevolenza, l'agitazione, la sonnolenza, il torpore, il dubbio scettico, e poi questi ostacoli vengono superati. And having temporarily overcome the hindrances, concentration will get stronger and stronger, and this will then eventually lead to the arising of intuitive insight that unfolds in a very systematic manner. E poi questo superamento temporaneo degli ostacoli, grazie a questo la concentrazione si rafforzerà sempre di più, e questo renderà possibile il sorgere della saggezza intuitiva e quindi dell'insight che si sviluppa in una maniera sistematica. Now, another text that we can turn to in terms of the acquisition of wisdom is the so-called Chanki Sutta. Un altro testo è il Chanki Sutta, a cui possiamo vedere per l'acquisizione della saggezza. And in that certain discourse there is certain mention of the initial faith that is required, or initial faith that arises, and out of that there will be a desire not to learn, but a desire to practice. Qui anche viene menzionata questa fede iniziale che sorge, e poi grazie a questa sorge il desiderio di imparare e di praticare. And so when there is this desire to practice, quite naturally one will exert oneself, one will make effort. E quindi con questo desiderio di praticare in modo spontaneo e naturale verrà da impegnarsi, da metterci uno sforzo. And when an object, a predominant object arises, then one will aim one's certain mind towards certain the center of the object, and with the help of the effort, viriya, the mind will be propelled towards certain the object. Quindi con questo desiderio di praticare vuol dire che quando un oggetto predominante sorge, il meditante indirizza la mente, mira la mente verso l'oggetto, e poi grazie allo sforzo lo osserva. And when the mind is the observing mind is actually touching or reaching the object, then it will be in close contact with that object of observation. E quindi quando questa mente che osserva arriva proprio vicino all'oggetto, entra in contatto con l'oggetto, allora è come se se questa mente che osserva riesce a stare lì con l'oggetto. And so when these certain factors are present, namely an aiming and an effort and being in close contact with an object, then gradually mindfulness will arise and it becomes more and more sustained. E allora, quando sono presenti questi tre fattori, quello di mirare un oggetto, indirizzare la mente verso un oggetto, ci vuole una certa energia poi per arrivare sull'oggetto e poi mantenere la mente e l'osservazione a contatto con l'oggetto, quando ci sono queste tre cose, la consapevolezza poi può svilupparsi. And when this happens, moment after moment after moment, the mind will increasingly fall squarely onto the object of observation. E poi quando questo succede, un momento dopo l'altro, la mente gradualmente si calma, si stabilizza sull'oggetto di osservazione. And in other words, the mind becomes certainly concentrated. E quindi in questo modo la mente diventa concentrata. And when, based on all these certain factors, concentration arises, concentration is present, then the chances of intuitive wisdom to arise are good. Quindi sulla base di questa cosa, quando la concentrazione sorge e poi la concentrazione riesce a continuare, allora la possibilità che sorga la saggezza intuitiva c'è una buona possibilità che possa sorgere. No. Today, during the interviews, there were a few, not too many, yogis who were quite skilled at describing the nature of various physical formations. Durante i colloqui di oggi ho incontrato alcuni meditanti, non tanti, che erano in grado di descrivere in modo molto abilmente la natura dei fenomeni fisici, delle sensazioni fisiche. However, in terms of observing and coming to know mental formations, there was less of that. Tuttavia ce n'erano meno in grado di descrivere bene le formazioni mentali. Now, in this context, the Visuddhimagga has certainly some good advice. What to do if the immaterial, so the non-physical objects, are not that clear yet? E in questo contesto il Visuddhimagga ci dà un suggerimento di cosa fare quando gli oggetti immateriali, cioè si intende dire gli oggetti mentali, non sono ancora abbastanza chiari. So the Visuddhimagga states, but if one has discerned materiality in one of different ways, and while one is trying to discern the immaterial, it does not become evident to a retreatant owing to its subtlety, then one should not give up, but should again and again comprehend. Allora, se un meditante ha compreso, riesce ad osservare la materia in molti dei suoi aspetti, ma tuttavia gli aspetti immateriali, cioè mentali, non sono chiari per lui, non dovrebbe arrendersi, ma dovrebbe continuare con la sua comprensione. Yes, and that one needs to again and again give attention to discern and define materiality only. E per fare questo dovrebbe ancora e ancora fare uno sforzo per osservare, discernere bene solo gli aspetti materiali. And when the retreatant keeps observing physical objects over and over and over again, what happens to his or her ability to clearly observe? Does it improve or does it degrade? E quindi cosa succede a un meditante se ancora e ancora cerca abilmente di osservare e migliorare la sua abilità nell'osservazione degli aspetti materiali? Questa sua abilità nell'osservare aumenterà o diminuirà? So what would you say? It will increase, of course. Naturalmente aumenterà. So for in proportion as materiality becomes definite, disentangled and quite clear to the retreatant, so the immaterial states that have that materiality as their object become plain of themselves too. Quindi quando la materia viene ben distinta, diventa veramente molto chiara a un meditante, in modo automatico anche gli aspetti mentali inizieranno a diventare chiari ed evidenti. And the Visuddhimagga contains another nice illustration, namely, just as when a man or woman with eyes looks for the reflection of his or her face in a dirty mirror and sees no reflection, he or she does not throw the mirror away. Visuddhimagga dà una bella similitudine per questo e dice: se un uomo o una donna con una buona vista volessero vedere la loro immagine riflessa in uno specchio sporco e quindi guardando lì non riuscissero a vedere nessun riflesso, non è che per questo dovrebbero buttare via lo specchio. And on the contrary, one polishes the mirror, one cleans it again and again, and then the reflection becomes plain of itself. Ma invece bisogna pulire bene bene lo specchio, renderlo davvero molto chiaro, a quel punto il riflesso diventerà automaticamente, comparirà il riflesso. Mm-hmm. And so when the mental formations at first aren't all that evident, never mind, keep observing the physical formations. Quindi se le formazioni mentali all'inizio non sono chiare, non fa niente, voi continuate ad osservare le formazioni fisiche. Now, one very last point for today, the development of intuitive wisdom starts with baby steps. Allora, lo sviluppo della saggezza intuitiva inizia con proprio dei passettini da bimbo. And in the sense of observing, let's say, the rising and falling movement of the abdomen, and first of all, learning to make this distinction between the rising and falling. These are two different objects, not the same. Per esempio, quando noi osserviamo salire e scendere dell'addome, possiamo iniziare a fare, ad avere questa distinzione che il salire e lo scendere non sono la stessa cosa, sono due cose separate e diverse. And the rising movement of the abdomen may contain rather specific sensations and different from the sensations that occurred during the falling movement. Il salire dello salire dell'addome può avere delle sensazioni, una serie di sensazioni che sono molto specifiche e che sono diverse, completamente diverse dal movimento dello scendere. And so at first that a great number of sensations will be there, but a retreatant is not in the position yet to clearly discern one from the other. So it's just all sensations. E anche se in realtà ci sono moltissime sensazioni lì da essere percepite, un meditante magari non è ancora in grado di percepire questo e quindi gli sembra tutta la stessa cosa, gli sembra tutto un po' simile. And if one keeps observing carefully, then gradually one comes to recognize, oh, this is stiffness, oh, this is tightness, this is hardness, etc. Però se continua ad osservare con molta cura e attenzione, riuscirà proprio a iniziare a distinguere ogni sensazione, questa è tensione, questa è rigidità, questa è durezza. And so the same thing then also applies to various mental states and mental phenomena. E la stessa cosa avviene anche per i diversi tipi di stati mentali o fenomeni mentali. So, by initially taking baby steps, may gradually your practice unfold in such a manner that certain ever more profound levels of intuitive wisdom become discernible to you. Quindi io, il mio augurio è che iniziando con questi passettini da bimbo, pian piano la saggezza intuitiva possa svilupparsi fino ai livelli più elevati. And may those certain levels of intuitive wisdom ultimately culminate in realizing the stream of the first attainment of a stream entry. E che con lo sviluppo di questi vari livelli di saggezza intuitiva, alla fine voi possiate realizzare l'entrata nella corrente. And so may you work towards that. E quindi lavoriamo su questo. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu.